Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Sarò io oggi con voi e poi domani tornerà Sebastiano Barisoni. 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms. I temi che affronteremo oggi. Innanzitutto toccheremo questo dato sull'inflazione, che si conferma in netto rallentamento, la crescita annua dei prezzi è ferma allo 0,3% in giugno, dallo 0,5% di maggio, rappresenta naturalmente un segnale ulteriore di una tendenza verso la deflazione della quale molto abbiamo parlato, e sicuramente rappresenta un segnale chiaramente che i consumi non tirano. Approfondiremo questo argomento in apertura di trasmissione per fare un punto anche più in generale sulla situazione dell'economia italiana. Vi abbiamo raccontato anche nelle settimane scorse del dato del Centro Studi di Confindustria che indica una crescita del più 0,2%, se crescita si può chiamare a questo punto, per il 2014, per quest'anno, contro una previsione del governo ad un più 0,8%, e insomma questi dati sull'inflazione sembrano confermare che la tendenza è tutt'altro che buona. Ci occuperemo poi di cassa integrazione in deroga, ve l'abbiamo raccontato tante volte da questi microfoni, insomma, che la cassa integrazione in deroga, che sicuramente ha consentito a molte famiglie in questo periodo di crisi di sopravvivere, insomma, di stare insieme dal punto di vista dei redditi, è però ha degli elementi di distorsione in questa fase di crisi abbastanza forti, perché va a sostenere il reddito di lavoratori di aziende che però nella sostanza sono già decotte, sono già finite, non sempre naturalmente, però quando viene portata all'estremo. Ebbene, oggi il ministro del lavoro Poletti ha detto che manca 1 miliardo di euro al momento. Il ministro Guidi, per sostenere la cassa integrazione in deroga, il ministro Guidi ha detto sicuramente lo troveremo. Certo è che si sta procedendo, come spesso purtroppo accade in questo paese, emergenza per emergenza, mentre probabilmente servirebbe una rivisitazione complessiva. Da quanto tempo ne parliamo anche di questo, del sistema di ammortizzatori sociali? Per appunto far sì che chi eventualmente esce dalla cassa integrazione in deroga abbia un qualche tipo di sostegno al reddito o al ricollocamento. Questo probabilmente è il primo problema. Non ci faremo mancare nemmeno noi, come ha fatto Oscar Giannino, come ha fatto Cuore Denari questa mattina, il tema, i due temi fiscali o parafiscali di queste ore, ossia l'introduzione dell'obbligo del POS per commercianti e professionisti, senza però sanzioni. Qualcuno dovrebbe spiegarci che tipo di obbligo è a questo punto, se uno non lo adotta non ci sono sanzioni, insomma vedremo di capire anche che efficacia possa avere effettivamente, soprattutto dal punto di vista della lotta all'evasione. Evidentemente l'altro tema è la tassazione che entra in vigore domani, la nuova tassazione sulle rendite finanziarie, e cercheremo di capire anche quali sono le possibilità per conservare qualcosa, almeno quel che riguarda la prima parte dell'anno. Ovviamente ci occuperemo di mercati che in questo momento vanno lievemente meglio rispetto a come erano fino a metà giornata, nel senso che Milano è arrivata a perdere uno 0,7-0,8%, in questo momento il FTSE MIB cede lo 0,4%, il FTSE share lo 0,43%, negativa anche il resto d'Europa, con Parigi che cede lo 0,38%, in realtà Francoforte guadagna lo 0,17%, Londra cede lo 0,29%, mentre l'America cede lo 0,4%. 0,15% sul Dow Jones, il Nasdaq guadagna lo 0,12%, lo Standard & Poor's è praticamente in pareggio. Tutto questo dopo dati che sono arrivati dagli Stati Uniti che tutto sommato sono in realtà abbastanza positivi, perché gli accordi di compromesso per l'acquisto di case sono cresciuti in maggio del 6,1%, migliore dato, migliore delle attese degli analisti, e l'indice dell'attività manifatturiera misurato dalla Fed di Dallas è a 15,5 punti contro gli 11 di maggio. Ogni dato sopra quota zero per quanto riguarda questo specifico indice segna una fase di espansione dell'attività economica, quindi dati positivi, ma la borsa non ha reagito particolarmente bene. Questo il quadro, mercati come si diceva positivi, lievemente negativi. Tra i titoli in positivo c'è Prismian che guadagna il 2,17, Enel 1,5%, Salvatore Ferragamo 1,40%, Moncler 1,08%, Finmeccanica lo 0,44%, in fondo al listino molte banche che ovviamente come sempre pesano tanto sul listino italiano: Monte dei Paschi meno 4,4%, Banco Popolare meno 3,8%, Popolare di Milano meno 3,5%, UbiBanca meno 3,4%. E abbiamo anche Intesa che cede lo 0,8%, Unicredit mezzo punto percentuale di calo. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di oggi. Iniziamo come sempre dalle materie prime, l'oro in calo dello 0,3% a 1315 dollari l'oncia e petrolio in leggero calo a 105,6 dollari al barile per quanto riguarda il WTI. Chiede Rossano via SMS al 349-238-6666 a proposito dell'Argentina. Ebbene, era da qua che volevamo partire con le nostre notizie in breve. Lo spread fra i titoli argentini e i titoli del tesoro americani sale di 21 punti a quota 1060. Venerdì il giudice di New York, Griesa, ha bloccato i pagamenti disposti da Buenos Aires attraverso una banca americana ai debitori che hanno aderito al concambio in seguito ad una richiesta degli hedge fund che invece sono rimasti fuori, come sapete, dalla ristrutturazione. La decisione, l'abbiamo già raccontato, rischia di portare il paese al default se non si troverà un accordo fra le parti entro 30 giorni, quindi sostanzialmente c'è ancora un mese di tempo. Tra l'altro, la stessa Argentina ha lanciato una campagna sui principali quotidiani internazionali, una campagna che è arrivata anche in Italia, oggi sulla Repubblica, dove si ribadisce che il paese conferma il proprio impegno ad onorare i propri debiti nei confronti del 100% dei creditori in modo equo, giusto e legale. Una vicenda che incrocia il tema dell'informazione e, se vogliamo, anche della rapidità dell'informazione via internet ma anche via SMS, ed è la vicenda della Bulgaria, perché nei giorni scorsi sono stati diffusi messaggi anonimi via internet e anche via SMS secondo i quali la terza banca per grandezza in Bulgaria, la First Investment Bank, verserebbe in gravi difficoltà. Queste notizie hanno provocato il panico tra i bulgari che hanno assaltato le filiali per ritirare i propri depositi. Una settimana fa una situazione analoga si era registrata con un'altra banca. Ebbene, le autorità di Sofia hanno ricevuto questa mattina l'autorizzazione di Bruxelles a contribuire per la liquidità delle banche in Bulgaria, aprendo una linea di credito per 3,3 miliardi di lev, che sono circa 1 miliardo e 700 milioni di euro. Nel comunicato della Commissione Europea, della sede della Commissione Europea a Sofia, si sottolinea che il sistema bancario bulgaro è ben capitalizzato e dispone di alti livelli di liquidità rispetto ai sistemi bancari di altri paesi europei. Quindi, nella sostanza, si tratterebbe di un cosiddetto bank run scatenato, ossia di una corsa agli sportelli bancari scatenato da notizie false. Abbiamo il nostro Wolfgang Schäuble quotidiano, ministro delle finanze tedesco, che dice che l'economia mondiale si è ripresa dalla crisi finanziaria internazionale davvero bene. Forse in Germania. Comunque, ora si tratta di stabilizzare la crescita. Per questo tutti gli stati, primi fra tutti quelli del G7, devono fare la propria parte. Dati italiani. Partiamo da uno appena battuto dalle agenzie e che arriva dall'Istat. Nel secondo trimestre la variazione del PIL è prevista ricadere in un intervallo compreso tra meno 0,1% e più 0,3%. Quindi sta dicendo l'Istat che nel secondo trimestre la crescita potrebbe essere sotto lo zero. Ha rivisto al ribasso le stime precedenti, che arrivavano fino a un più 0,4%, e dice il recupero dei ritmi di attività economica dovrebbe risultare più graduale di quanto atteso all'inizio dell'anno. Tradotto dal linguaggio dell'Istituto di Statistica, la ripresa è lentissima. Ci sono i dati sull'inflazione, ve l'abbiamo detto, c'è l'obbligo del POS per imprese e professionisti, e anche questo ve l'abbiamo detto, ci torneremo più avanti, e domani scatta la tassazione sulle rendite finanziarie dal 20 al 26%, con l'unica eccezione di titoli di Stato italiani o esteri e fondi pensione. Il Sole 24 Ore aveva calcolato che tra innalzamento aliquote, imposta di bollo e Tobin tax, il prelievo fiscale sui profitti da investimenti finanziari può raggiungere in alcuni casi anche il 40%, uno dei livelli più alti in Europa. Oggi c'è stata anche la relazione annuale del presidente dell'antitrust, Giovanni Pitruzzella. Adesso ci sentiremo qualche dichiarazione a partire dal tema del capitalismo di relazione. Dice Pitruzzella, danneggia la parte vitale e competitiva dell'economia italiana. I critici hanno un bersaglio polemico, che è il crony capitalism, quello che noi in Italia traduciamo come capitalismo di relazione, un assetto economico che è basato sull'intreccio tra pochi potentati economici, sul rapporto privilegiato col potere politico e amministrativo, sulla ricerca della rendita di posizione piuttosto che sulla concorrenza basata sul merito. Il crony capitalism crea società statiche, società poco aperte all'innovazione, società in cui è pregiudicata anche l'eguaglianza delle opportunità, e nonché appunto spesso alimenta quel grosso debito pubblico che costituisce per l'Italia il più grande ostacolo per la ripresa della crescita e per il futuro delle nuove generazioni. Certamente etichettare l'economia italiana come un caso di crony capitalism sarebbe ingeneroso per le tante imprese che competono con successo sui mercati globali, per le tante imprese che ancora oggi sono leader dell'innovazione, per coloro che hanno affrontato la crisi e per quelle imprese che hanno sofferto a causa di un ambiente poco amichevole nei confronti dell'iniziativa economica privata. Semmai il capitalismo di relazione costituisce una componente del complessivo sistema che danneggia la parte vitale e competitiva dell'economia italiana. Ah. Ancora, Pietrucella si sofferma sui prezzi delle assicurazioni auto. Ci vuole un intervento di riforma del mercato delle assicurazioni per la responsabilità civile. Naturalmente quella derivante dalla circolazione di auto e moto, i prezzi per le polizze sono tra i più alti d'Europa e la mobilità degli assicurati da una compagnia all'altra è particolarmente bassa. E questo probabilmente è anche colpa nostra, è che a volte la concorrenza ce l'abbiamo sotto mano ma non la sfruttiamo. Va realizzato un rafforzamento della separazione tra fondazioni e banche, dice ancora Pietrucella. Il caso delle assicurazioni, dove appunto l'autorità di regolazione col suo autorevole presidente è proprio di recente intervenuta a favore di una riforma del settore della responsabilità per RC auto, e abbiamo lavorato anche con l'autorità nei mesi trascorsi, e probabilmente i tempi sono maturi per arrivare a una riforma che possa favorire la mobilità dei consumatori da una compagnia all'altra e ridurre i prezzi che questi pagano. Anche nel settore bancario probabilmente sono necessari degli interventi, e qui è stato un merito dell'antitrust l'introduzione del divieto di interlocking directorates, e probabilmente bisogna rendere effettivo questo divieto anche con riguardo alle fondazioni bancarie, e probabilmente anche sui rapporti tra fondazioni bancarie e banche appunto conferitarie bisogna appunto continuare a lavorare per raggiungere una maggiore separazione. A chi ci chiede se il dato sul PIL fosse un dato negativo nel secondo trimestre saremmo di nuovo in recessione oppure no, dato che il primo trimestre era stato negativo, meno 0,1%, diciamo di no, perché beneficiamo, per così dire, della straordinaria crescita dell'ultimo trimestre del 2013, che è stato un più 0,1%. Tecnicamente non saremmo in recessione, perché c'è recessione quando sono tre trimestri di fila, insomma, però se volete chiamarla ripresa questa. Il tema del riordino radicale delle società pubbliche. Nei giorni scorsi c'era stata la Corte dei Conti, l'aveva calcolate in 7.600, anche qua i numeri divergono perché Cottarelli dice sono circa 10.000, cioè nemmeno abbiamo idea di quante siano le società di proprietà pubbliche. Fatto sta che con gloriose eccezioni, insomma, ce ne sono alcune che sono dei buchi neri. Insomma, ci vuole un riordino, dice Pietrucella. Il capitalismo relazionale esiste soprattutto a livello locale. Ecco, riferimento a quella forma di capitalismo municipale che si basa di società pubbliche che hanno affidamenti in house, di società miste, e che dà luogo appunto spesso a intrecci, direi, perversi tra pubblico e privato, talora a erogazione di servizi appunto con costi gonfiati o comunque non di qualità, che a parere dell'antitrust occorrerà intervenire. Probabilmente i tempi sono maturi per un'opera di riordino radicale delle società pubbliche locali che porti alle dismissioni o comunque all'impossibilità di rinnovare gli affidamenti a quelle società che registrano perdite costanti o che erogano, e questo è il profilo più importante, servizi a prezzi diversi e più elevati rispetto a quelli di mercato. Allora, veniamo al primo tema di questa giornata, che è la situazione dell'economia italiana. Pensiamo di parlare prevalentemente di inflazione e poi ci piove quest'Istat che dice che nel secondo trimestre la variazione congiunturale del PIL è prevista a ricadere in un intervallo compreso tra un meno 0,1% e un più 0,3%. rivedendo a lieve ribasso le stime precedenti. Ribadiamo le parole dell'Istat e la loro traduzione. Dice l'Istat: il recupero dei ritmi di attività economica dovrebbe risultare più graduale di quanto atteso all'inizio dell'anno. Ossia, se ripresa c'è, è lentissima. 349-238-6666 per i vostri SMS. Fedele De Novellis, capo economista di Ref Ricerche. Buonasera e benvenuto. Buonasera. A me sembra che stiamo progressivamente spostandoci verso quella che è la previsione del Centro Studi di Confindustria, cioè un più 0,2% di crescita nell'arco del 2014, e si scappa poco da quei decimali. Beh, direi proprio di sì. Era stata l'Istat stessa a vendere l'idea che il primo trimestre fosse stato condizionato da un'anomala caduta della produzione di energia legata a fattori climatici. Questi sono i paradossi: quando si spiega con il clima qualcosa della congiuntura, vuol dire che ci si arrampica un pochino sulle contingenze. L'hanno fatto anche gli americani, no? Beh, però per gli americani era vero, evidentemente, visto che chi si aspetta un rimbalzo lo vedrà davvero. Viceversa, qui in Italia sembrerebbe che le cose continuano a viaggiare male. Continuano a viaggiare male, quindi è ovvio che la crescita acquisita a quel punto è quella che viene con dei piccoli decimali, siamo su più marginale se va bene. La cosa che però più sorprende è che noi vediamo dei piccoli più quando altri indicatori congiunturali vanno molto bene, in particolare gli indicatori delle aspettative. Questo un pochino è stato il grande tema su cui abbiamo discusso negli ultimi mesi. Cioè, lei la confidence dice, delle famiglie migliora, quella delle imprese migliora, la produzione la produzione ristagna. Può essere che l'Italia abbia un potenziale, una situazione sostanzialmente in cui la normalità, anzi quando va bene ristagniamo. Faccio un esempio per farci capire. Aspetti un attimo, che così lo spiego agli ascoltatori. Come sapete, noi vi comunichiamo ogni tanto questi indici, che sono gli indici di fiducia, che misurano di fatto le aspettative sull'economia o sulla propria situazione economica personale, delle aziende, delle famiglie, dei consumatori e così via. Allora, questi dati sono sostanzialmente positivi e nei mesi passati hanno dato sempre un'indicazione di ripresa. Poi però ci ritroviamo con dati che non si riflettono sulla produzione reale. Però io mi chiedo, De Novellis, non è che a questo punto sono, dato che i dati sulla produzione, quelli sì, sono verificati, sono sbagliati i dati, l'impostazione delle ricerche che vengono fatte sulla confidence e sulla fiducia? La confidence è sempre un fatto relativo, in qualche modo interpreta gli umori, e quindi noi possiamo dire che se la normalità è diventata quella di una recessione, ecco allora che basta poco, basta ristagnare perché le aspettative migliorino. Questo vuol dire che il sistema si è riportato su una nuova normalità che non è quella della crescita, non è quella del più 2 più 3%, per cui le aspettative sono in boom quando si cresce del 5. Oggi le aspettative per un lavoratore sono che se già non perde il posto di lavoro è contento, e se già non ha una riduzione del salario è contento. Ecco dunque che nei mesi scorsi, nel vedere questo miglioramento del clima di fiducia, qui ha contribuito molto l'effetto politico del cambiamento di governo, c'è stato un effetto Renzi, ecco, questo cambiamento ha lasciato presumere, lo devo confessare, anche noi abbiamo un pochino ceduto nelle previsioni, che si potesse andare sopra lo 0,5%, che per carità non è nulla di clamoroso, però era il segnale che l'economia potesse iniziare a svoltare. Viceversa, se valgono queste anticipazioni dell'Istat sul secondo trimestre, quello che sembra emergere è che il sistema Italia, anche in un contesto in cui la congiuntura migliora a livello internazionale, anche quando le cose sembrano migliorare, fa fatica a crescere. Far fatica a crescere in aggregato vuol dire che quando alcuni crescono ce ne sono altri che stanno ancora cadendo, per esempio alcune filiere come quella dell'edilizia è ancora in caduta, e quindi tutti i settori a monte. Ci sono sostanzialmente alcuni esportatori che se la cavano, alcuni beni, però per esempio sui consumi, alcuni consumi di servizi vanno, ma molti consumi di beni cadono ancora. Insomma, il quadro è quello di una crescita che va su pochi decimali, e questo ci crea qualche problema, perché per una serie di ragioni, tra le quali il fatto che tutto l'orizzonte della finanza pubblica, ecco, è pianificato. Bravissimo De Novelli. Sì, io proprio a questo punto volevo arrivare, ossia il fatto, e questo ve lo raccontiamo sempre, ne parliamo sempre, i parametri europei, il famoso 3%, così come il rapporto col debito pubblico, è appunto un rapporto, viene rapportato al PIL. Quindi se cala il prodotto interno lordo, tutto questo ha un impatto evidentemente anche sul calcolo dei parametri dei quali si tiene conto a Bruxelles. E questo è un elemento importante. Al momento la previsione del governo è ferma ad un più 0,8% di crescita per il 2014. Come abbiamo visto, ci avviamo su un più 0,2% più o meno. Vedo molti sms di ascoltatori che arrivano in merito al fatto che scatta oggi l'obbligo di POS. Ci arriveremo più avanti nella seconda parte della trasmissione. Obbligo naturalmente, per modo di dire, visto che non c'è sanzione, o meglio è un obbligo, cioè lo è effettivamente, però non c'è sanzione. Eravamo però sui temi economici generali e dell'Italia, a commentare soprattutto queste ultime indicazioni arrivate dall'Istat, che dice l'Istat: l'Italia nel secondo trimestre sostanzialmente avrà un PIL che sarà tra un meno 0,1% e un più 0,3%, quindi crescita ancora bassissima. Si diceva con Fedele De Novellis, capo economista di Ref Ricerche, si cercava di capire un po', insomma, come dovrà muoversi il governo a questo punto, perché è vero da una parte che si beneficia di interessi sul debito più bassi, qualche ascoltatore ce lo fa notare, insomma, è uno spread intorno ai 150-160 ormai stabilmente da settimane se non da mesi, e però hai una stima di crescita con più 0,8% sulla quale stai basando la tua finanza pubblica. De Novellis. Allora, partiamo dall'idea, appunto, diciamo l'Istat smentisce il governo, ci dà un'indicazione di 0,2, è una previsione, però sappiamo che l'Istat sa qualcosa in più di noi, quindi gode di una simmetria informativa, quindi noi trattiamo la previsione dell'Istat come un dato, non come una previsione, e quindi diciamo che quando c'è una stima vince sempre l'Istat, perché ovviamente ne sa qualcosa in più. Quindi diciamo che la crescita di pochi decimi è un dato oramai scontato, e quindi rispetto all'indicazione che il governo ha formulato qualche tempo fa abbiamo un differenziale che si ripercuote sui conti pubblici. A questo punto parte il problema di interpretare questo differenziale. Perché se noi lo interpretiamo come un fatto puramente congiunturale, diciamo così, ci sono dei ritardi nei tempi della ripresa, qualcosa non si è mosso ma si muoverà, per cui poi convergiamo verso lo scenario del DEF, tutto sommato possiamo dire che abbiamo qualche difficoltà, però ricordiamo che la finanza pubblica è costruita in termini di saldi strutturali, insomma, per semplificare le cose agli ascoltatori diciamo che non è grave. Possiamo invece pensare che le cose siano molto peggio, cioè è il potenziale dell'Italia che è basso, quindi quando guardiamo la previsione del DEF non basta solo resettare il dato di quest'anno, dobbiamo guardare con qualche scetticismo anche i dati degli anni successivi. Quindi se accumuliamo mezzo punto quest'anno in meno, il prossimo, l'altro ancora, quello che scopriamo è che il quadro è completamente diverso e che quindi anche la finanza pubblica che c'è nel DEF non tiene, e quindi ritorniamo all'idea della solidità di fondo o meno del nostro sistema. Che fiducia possiamo avere sul fatto che l'Italia si sta riprendendo? E qui era il quesito proprio iniziale, nessuno ha una risposta precisa, sì. Guardi, non io neanche, quindi certo. Non sono assertivo, però quello che dobbiamo che sta emergendo in questi trimestri e che non ci schiudiamo da questo zero. Questo potrebbe voler dire, se le cose vanno avanti in questo modo, che siamo strutturalmente un paese in stagnazione. E d'altra parte, se pensiamo a esperienze di crisi da debito finanziarie, molti paesi hanno ristagnato a lungo prima di venirne fuori. Allora, noi non siamo ancora venuti fuori. Allora, stagnazione con un rischio deflazione, forse, cioè, non dico concretissimo, ma quasi ci siamo. Insomma, oggi il dato dell'Istat segna, abbiamo un'inflazione che cresce dello 0,3% in giugno, dallo 0,5% di maggio. Su base mensile l'indice è in crescita dello 0,1%, gli alimentari giù dello 0,6%. Allora, non è deflazione, però è un'inflazione molto più bassa degli obiettivi della BCE. È un'inflazione inferiore agli obiettivi e quindi vuol dire che il livello dei tassi di interesse in termini reali ex post è più alto di quello che si pensava, e che vuol dire che chi è indebitato ha un costo reale del denaro superiore di quello, rispetto a quella che era l'aspettativa. La BCE sta fallendo i propri target, perché l'inflazione è un obiettivo che si fallisce non solo quando è più alta, ma anche quando è più bassa. Cerchiamo di spiegare agli ascoltatori che il problema è la credibilità dell'obiettivo. L'errore è simmetrico, non è che se fai meno inflazione allora è una cosa buona. Se hai detto 2, la cosa buona è stare al 2, se poi fai 4, fai 0, il danno è uguale, perché ridistribuisci fra debitori e creditori. Ma c'è un problema: in questo momento, con un'inflazione così bassa, iniziamo a creare dei meccanismi di indicizzazione al ribasso. Che cosa vuol dire? Pensiamo alle retribuzioni in Italia. I contratti si fanno sulla base di una previsione di inflazione. Man mano che l'inflazione scende, si abbassa la previsione di inflazione, si abbassano le dinamiche salariali future, i salari cresceranno meno nei prossimi anni, avrò deflazione salariale, comunque disinflazione salariale, e quindi disinflazione sui prezzi. Cioè, se non ne veniamo fuori presto, non ne veniamo fuori più, perché a quel punto i contratti che rinnoveremo, che sono 1, 2, 3 anni, saranno tutti contratti che avranno un'inflazione prevista intorno a un numero vicino all'1% al più. E quindi ecco che l'inflazione di oggi si trasferisce al futuro. E nel trasferire un'inflazione più bassa al futuro, cosa sto io ruminando? La trasmissione della politica monetaria, perché la BCE non può fare scendere i tassi sotto lo zero. E quindi ho il pavimento dei tassi di interesse a zero, l'inflazione che invece può scendere sin dove vogliamo. Oggi i tassi di interesse reali sono già più alti perché l'inflazione è scesa. Eccoci, poi magari riprenderemo anche qualche altro SMS, tanto sui POS, quanto sulla crescita, quanto sulla tassazione delle rendite. Ci arriveremo più avanti nella seconda parte della trasmissione. Intanto siamo alla borsa che Andrea Fontana, Radio Core Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Borsa che mi sembra che alla fine chiuda quasi sui massimi Milano, FTSE MIB meno 0,17%, sui massimi di seduta ovviamente, FTSE OCER meno 0,20% dopo una giornata che era stata complessivamente negativa, è arrivata a perdere un meno 0,8%, no? Sì, complessivamente stiamo assistendo a una correzione di Milano che è arrivata alla settima seduta di calo consecutivo, una correzione soprattutto all'insegna dei bancari, come dicevi tu. Sicuramente la giornata è stata anche peggiore per certi versi in alcune fasi degli scambi, intorno all'ora di pranzo è arrivata a perdere quanto tu ricordavi, poi ha un po' recuperato terreno, ma diciamo la chiusura è comunque negativa, soprattutto perché da inserire in un trend negativo di ormai 7 sedute. Allora, naturalmente non vi ho dato gli altri indici, arrivano subito quelli esteri, Parigi meno 0,32, Francoforte più 0,18, Londra meno 0,01%, quindi praticamente in perfetto pareggio. L'America meno 0,04% sul Dow Jones, più 0,05% sullo Standard & Poor's 500, il Nasdaq guadagna lo 0,22%. I bancari, si diceva, Monte dei Paschi meno 3,7%, Banco Popolare meno 3,14%, Popolare di Milano meno 2,8%, UbiBanca meno 2,69%, Intesa San Paolo meno 0,97%, Unicredit mezzo punto percentuale di calo. Diciamo di Banco Popolare meno 3,14%, non ci sono solo motivazioni legate al comparto qua, no? Beh sì, è da qualche seduta che Banco Popolare sconta l'incertezza su quella che è la sorte di una delle controllate, diciamo più, su cui il mercato ha più attenzione, cioè Release, una società in cui sono confluiti i crediti di dubbi dell'istituto. È arrivato lo stop anche per bocca, nelle parole dell'amministratore delegato Pierfrancesco Sabbiotti, lo stop a questa operazione per il momento. È chiaro che il mercato, che ci credeva, sta penalizzando il titolo. Già da qualche seduta nella scorsa settimana ha perso l'8,5%, oggi ha perso un altro 3,1% insieme al Monte dei Paschi, è stato il peggiore del FTSE MIB, il peggiore dei bancari per quanto riguarda Milano. Altri titoli negativi che non vi abbiamo dato: Autogrill meno 3,01, Buzzi Unice meno 2,8, Fiat meno 2,04, giù anche Mediolanum dell'1,9, Enel Green Power dell'1,8, Mediaset dell'1,6, Mediobanca di 1,5%, World Duty Free dell'1,44%, Terna dell'1,23, Azimut di poco più di 1%, GTEC meno 0,83%, Pirelli meno 0,68%, così come SIT Microelectronics, Jux giù dello 0,25%, di poco più dello 0,1% scendono Generali, Luxottica e Tenaris. Prismian più 2,48%. Prisma è stata la migliore, oggi premiata anche da un report di Mediobanca, gli analisti di Mediobanca che continuano a credere che il titolo possa far meglio degli indici e del comparto nel medio periodo. Questo spiega il più 2,4% di oggi, una performance a cui è seguito più 1,6% dell'Enel. Per quanto riguarda la società elettrica, si parla da tempo di vendite di società controllate all'estero. L'attenzione degli operatori è su una riorganizzazione che coinvolga anche l'America Latina, ma soprattutto l'indiscrezione di oggi riguarda un'offerta in arrivo per quanto riguarda gli asset in Slovacchia, e su questo il mercato ha premiato il titolo. Bene anche Ferragamo più 1,44%, Moncler più 1%, Exor più 0,94%, Unipolsai e Finmeccanica guadagnano lo 0,7%, Eni lo 0,6%, Atlantia lo 0,48%, Telecom Italia più 0,43%. Per quanto riguarda Telecom, oggi è stata una giornata positiva, sempre in controtendenza rispetto al listino, anche se in maniera piuttosto timida. Diciamo due le indicazioni che sono arrivate oggi: innanzitutto chiaramente con il riassetto degli azionisti partito nella seconda parte di giugno, c'è già chi ragiona sul fatto che Telecom possa finire come preda da parte di qualche gruppo. Oggi il Corriere Economia parlava di AT&T, il gruppo americano interessato a Telecom Italia, e questo sicuramente ha sostenuto il titolo. Oggi è arrivata anche, per quanto riguarda la controllata Telecom Italia Media, la formalizzazione dell'operazione di integrazione con l'Espresso delle frequenze televisive, per cui nasce per questo polo delle frequenze televisive. Chiaramente il riscontro, l'impatto su Telecom Italia è minimo, ma è certamente un'operazione che va nel senso della riorganizzazione delle attività. Bene oggi, bene insomma, parzialmente positive anche Saipem più 0,3, A2A più 0,3 anch'essa, TOTS più 0,22, Campari più 0,08, imperfetto pareggio, Snam, Popolare Emilia Romagna e CNH, perfetto pareggio, mentre l'euro quota a 1,3686 contro dollaro. Grazie a Andrea Fontana di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Allora, cose, notizie che so che faranno imbestialire qualcuno, in particolare l'ascoltatore, l'amministratore locale che ci scriveva prima e ci diceva: ho 25 milioni in banca come comune, non li posso spendere per il patto di stabilità. C'è il sindaco di Roma Ignazio Marino che sta illustrando il piano di rientro previsto dal decreto Salva Roma. Squilibrio dei conti da 550 milioni, Roma Capitale assorbirà in 3 anni 440 milioni, i restanti 110 se ne fa carico il governo riconoscendo gli extra costi di Roma in quanto capitale. Parliamo di lavoro adesso, o meglio di chi non è al lavoro, parliamo di cassa integrazione in deroga. Per rifinanziare la cassa in deroga manca 1 miliardo, dice il ministro del lavoro Giuliano Poletti. Renzi e Padoan hanno detto che non sono previsti nuovi interventi per il 2014, per me è risolutivo. Quanto all'ipotesi di ridurre il sostegno al reddito da 12 a 8 mesi, dice: non abbiamo ancora deciso nulla, è la legge Fornero che prevede dal 2014 l'uscita graduale dalla cassa integrazione e dalla mobilità in deroga. Tutto questo intervistato oggi dalla Repubblica. Cos'è la cassa in deroga? Ve lo ricordiamo, è l'istituto che estende la cassa integrazione ad aziende in crisi che non ne avrebbero diritto in relazione alle loro dimensioni. Saluto Giuliano Cazzola, che è deputato aderente al gruppo misto, ma soprattutto lo chiamiamo perché è esperto di lavoro e previdenza e in questi casi ci aiuta sempre. Cazzola, buonasera. Buonasera a lei, io non sono più deputato, la ringrazio sì. Per avermi... Ex deputato, manca un ex là davanti. Allora, Cazzola... L'impressione, ancora una volta ci ritroviamo a ragionare su questa emergenza, aperte virgolette, la metto tra virgolette perché è un'emergenza che continua, che ogni 6 mesi, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, ogni anno si ripresenta, della cassa integrazione in deroga. L'impressione è che si continui ad avanzare per enormi stanziamenti, ma che funzionano come... tamponi di breve periodo, no? Perché in realtà questo è un istituto che spesso va a sostenere aziende decotte, ma non solo. C'è qualche ascoltatore che ci manda qualche testimonianza, adesso non abbiamo ancora tempo di leggerla, ma insomma va a sostenere anche aziende decotte, o meglio lavoratori di aziende decotte. La realtà è che servirebbe un ragionamento complessivo sugli ammortizzatori sociali che faccia meno anche di questa cassa in deroga, o no? Sicuramente, anche perché questa cassa integrazione in deroga rischia di diventare strutturale. La interrompo, è già un paradosso, no? Perché la chiamiamo in deroga, ma in realtà... Poi, peraltro, rischia di diventare strutturale nel momento in cui una legge dello Stato l'ha già condannata al superamento, l'ha ricordato lei, la legge Fornero prevede un esaurimento graduale nel tempo di qui al 2017, nel frattempo un'entrata in vigore anche verso graduale dell'ASPI, della nuova assicurazione contro la disoccupazione. Poi addirittura diciamo il piano di Renzi, quello che è in discussione oggi al Senato, la parte diciamo più importante del Jobs Act, prevede diciamo i risparmi colloca i risparmi derivanti dal superamento della cassa in deroga come fattore di finanziamento della sua riforma, quindi addirittura del reddito minimo, di queste forme che sono inserite nella riforma di Renzi. Però nello stesso tempo è un po' la storia del naufrago di Manzoni, no? Non sì. Si riesce a staccarsi dagli arbusti per approdare, per attaccarsi ad un appoggio un pochino più solido. Di nuovo buonasera da Simone Spezia. Adesso arriveremo anche, e non solo in risposta ai molti sms che ci arrivano, sulla questione della tassazione sulle rendite finanziarie che scatta domani e l'obbligo di POS che scatta oggi, Però restiamo intanto sulla cassa integrazione in deroga, perché anche qua ci stanno arrivando dei messaggi. L'ascoltatore Raffaele da Milano che dice: senza cassa in deroga che speranze restano alle piccole imprese nei momenti grigi? Aiuti sempre solo alle grandi? Non è tanto questo, si stava dicendo Giuliano Cazzola che il tema è la ristrutturazione complessiva, il cambiamento complessivo degli ammortizzatori sociali. E ci scrive un ascoltatore: Cazzola, e questa mi sembra forse la valutazione più interessante tra quelle che leggo, dice: sarà dura riformarla perché le riforme si fanno nel tempo delle vacche grasse, non durante la carestia. Cioè, mettere mano a tutto questo in questa fase, in questo momento, è particolarmente difficile. Cazzola. No, sicuramente è difficile, anche perché poi non ci si riesce. Io posso solo far notare che le grandi imprese e la cassa integrazione ce la pagano, perché la cassa integrazione, soprattutto quella ordinaria, è a carico della contribuzione sociale e quindi a carico delle imprese, credo in piccola parte anche dei lavoratori. E la legge Fornero prevede che le imprese diciamo che non hanno la cassa integrazione al di sopra di un certo numero di dipendenti possono farsi, anzi è previsto che si facciano dei fondi di solidarietà diciamo a loro carico. Peraltro, sempre dico, nella delega in discussione al Senato questa materia è all'esame, è all'esame del Parlamento, e ci sono delle idee, ci sono delle iniziative che portano a risolvere questo problema. Il problema vero è che per fare le riforme degli ammortizzatori sociali ci vogliono delle risorse che oggi non ci sono, ma diciamo, mi passi il verbo, lo metto tra virgolette con tanto rispetto per le persone che si trovano in mezzo, ma continuare a sprecare delle risorse per la cassa integrazione in deroga non aiuta sicuramente a dare una stabilizzazione e anche una universalizzazione, una estensione al sistema degli ammortizzatori sociali, perché in effetti noi ci trasciniamo una norma, un modo di fare diciamo che abbiamo adottato in modo abnorme nel 2008, nel 2009, nel momento più alto della crisi, però insomma bisogna che riusciamo a instradarci su un percorso che sia un percorso non dettato da questa occasionalità, no? Peraltro la cassa integrazione in deroga è totalmente a carico del fisco, o comunque di risorse che sono o dal Fondo Sociale Europeo, o comunque ecco, da risorse che possono essere meglio destinate ad altri scopi. Detto ciò, Cazzola, io dubito che a questo giro si riesca a risolvere in altro modo se non rifinanziandola. Con questo modello qui, certo, ci sono soldi che sono già stati spesi. E tra l'altro poi la cassa integrazione in deroga ha una gestione a livello delle regioni ed è anche poco controllabile, perché è molto difficile correre dietro le botteghe, molto difficile correre dietro gli studi professionali, e quindi è chiaro che questo giro è un'altra occasione persa. Però bisogna cercare di fare in modo che queste occasioni si perdano meno in futuro. Allora, grazie a Giuliano Cazzola, già deputato e adesso esperto di previdenza. Ci scrive Filippo da Milano: le risorse non ci sono perché si sono mangiati tutto, così un po' semplificatorio. Invece l'ascoltatore, un altro ascoltatore, diciamo, carina la battuta, forse un po' irrispettosa nei confronti delle persone che vivono una fase di sofferenza lavorativa, e dice: prevede un incremento di forestali al nord. Vabbè, lasciamola là. Saluto invece, anzi adesso passiamo all'argomento, diciamo, del quale stanno più o meno discutendo tutti, ossia la tassazione sulle rendite finanziarie e il POS obbligatorio. Obbligatorio, circolava una battuta questa mattina di Massimo Mantellini su Twitter: il POS facoltatorio, perché Pur essendoci la sanzione, è tanto obbligatorio non è. Meglio lo è, però non c'è la sanzione. Salvatore Padura del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, iniziamo da qua. Iniziamo dal POS. Io sono abbastanza colpito, no, dal fatto che uno renda obbligatorio qualcosa senza prevedere, per quanto sia complicata la vita per i professionisti, perché ci sono commissioni bancarie molto elevate, lo raccontano e lo denunciano, eccetera eccetera, però come fai a prevedere qualcosa di obbligatorio e non prevedere una sanzione se non ottemperi? Sì, ti sei fatto la domanda e ti sei dato la risposta, è così, insomma. Però purtroppo questo è un paese in cui le cose vanno spesso in questo modo, quindi diciamo è stato introdotto questo obbligo, peraltro era stato introdotto già alla fine a metà del 2012, doveva entrare in vigore già sei mesi fa, forse ancora di più, poi è stato rinviato svariate volte, poi era stato messo un limite di, mi sembra, 200-300 euro a operazione, poi invece adesso è entrato in vigore, sappiamo che il limite è 30 euro, in realtà diciamo poi se il negoziante o il professionista o l'artigiano insomma non è dotato di macchinetta e quindi diciamo il cliente si deve attrezzare in modo diverso per il pagamento, ovvero intraprendere tutta una complicatissima strada di ricorsi, contro ricorsi e così via. Mi sembra, allora, esagerati onestamente, però insomma. Allora, la domanda vera che ho io su questo tema, adesso ci sentiremo il traffico e poi mi risponderai, è questa: ma cosa, avendo che io abbia il POS oppure no, cosa mi impedisce di dire 60 euro col POS, 40 euro in contanti? (349) 238 6666 per i vostri sms. Ci scrive un ascoltatore: sono un commerciante, il mercato che ti obbliga è dal 1988 che opero con carta di credito. Benissimo, benissimo, da utente ne sono felice. Ci scrive qualcun altro: la sanzione del POS obbligatorio è la libertà del cliente di rifiutarsi di pagare in altro modo, perché appunto il POS è obbligatorio. Però insomma. Sì, sono due osservazioni giustissime. La prima in particolare mi trova assolutamente d'accordo, cioè qui quello che non si coglie, diciamo, è che questi strumenti di pagamento diventano anche un'opportunità per, diciamo, i commercianti, per i professionisti, eccetera. Insomma, lo ripetiamo sempre, ci sono paesi non lontanissimi da noi dove con la carta di credito si paga anche il caffè, insomma, cioè probabilmente, diciamo, un salto culturale da parte di tutti noi è necessario. È giusto introdurre queste modalità come obbligo, seppur non sanzionato? Non lo so, è una risposta difficile. Io devo dire che personalmente, se devo pensare che un giorno potrò scegliere se entrare in un negozio sapendo di poter pagare con la carta di credito, entrare in un altro e sapere invece di non poter usare la carta di credito, senz'altro sceglierò il primo. No, quindi e qui in fondo è esattamente quello che dice il secondo radioascoltatore, cioè che insomma anche poi per gli utenti consumatori insomma c'è la possibilità di scegliere, e questa cosa probabilmente diventa un elemento importante per scegliere. Senti, c'è un tema ed è quello che sollevano i professionisti, no? E le partite IVA, insomma coloro che saranno costretti, seppur senza sanzioni, da oggi ad avere il POS, ad avere bancomat o carta di credito, ed è la questione delle commissioni. Quello resta un tema aperto, mi pare. Sì, quello resta un tema aperto, resta un tema non secondario, anche perché io ricordo che insomma, mesi e mesi fa, quando il governo stava, forse il governo precedente o addirittura quello ancor precedente, stava ragionando sull'introduzione di questa novità, e insomma si diceva che il tutto sarebbe andato di pari passo con un intervento per rimodulare le commissioni, per abbassarle, per rendere deducibili, eccetera. Ovviamente, purtroppo, questa seconda parte non è stata fatta, insomma, non mi risulta sia stata fatta. Quindi, diciamo, in fondo, questa lamentela dei costi aggiuntivi non è certamente fuori luogo, insomma, per cui è vero che su quel fronte qualcosa bisogna fare, bisogna pensare. Tanto che molti ascoltatori dicono è un regalo alle banche, questo è il modo di Renzi per restituire quello che ha tolto alle banche per trovare le coperture degli 80 euro e via dicendo. Altri ascoltatori dicono... il mio elettrauto vorrebbe che qualcuno qualche volta gli chiedesse fatture, invece i consumatori vanno lì con il contante per risparmiare sull'IVA, ci scrive Davide da Venezia. Verrei all'altro tema di queste ore, che è la tassazione sulle rendite finanziarie. Da domani sale dal 20 al 26%, unica eccezione titoli di Stato italiani o esteri fermi al 12,5% e fondi pensione all'11%. Tra l'altro, come avete ben raccontato anche nei mesi scorsi e state continuando a raccontare sulle vostre pagine sul vostro sito, il prelievo fiscale sui profitti da investimenti finanziari può raggiungere in alcuni casi anche il 40%, perché si sommano aliquote, imposta di bollo e Tobin tax. Sì, sostanzialmente. Sì, sì, sì, hai posto l'accento sulla vera questione. Il problema italiano non è diciamo l'aliquota secca su le attività finanziarie, che tutto sommato con l'aumento dal 20 al 26% che entra in vigore domani va più o meno in linea con quello che succede negli altri paesi. Il problema vero nostro è che, oltre a questa importante, perché è un quarto, più di un quarto, insomma, forma di prelievo, esistono tanti altri balzelli, l'imposta di bollo, Tobin tax, che portano poi il prelievo effettivo sui rendimenti a livelli veramente molto molto elevati. Quindi diciamo un'operazione che in sé non è sbagliata, perché ci allinea ai livelli di prelievo degli altri paesi, che non è vero che pagano meno di noi, sbagliata perché diciamo arriva in un contesto in cui noi abbiamo anche altre forme di tassazione che all'estero non esistono. L'ultima domanda che ti voglio fare, poi ti lascio all'intenso lavoro, soprattutto in queste ore che state facendo, il cosiddetto affrancamento. Io credo che ormai che sarebbe, insomma, se si può decidere se optare o meno per versare imposte dovute fino a questo momento, per poi tassare al 26% il resto dal 1 luglio, ma penso che ormai ore 18 e 25 non si possa più fare realtà, niente. No, sì. No, in realtà no, si può ancora, diciamo, fino a oggi, o forse addirittura fino a venerdì, si poteva decidere, diciamo, di disinvestire, quindi di vendere e di pagare con la vecchia aliquota del 20%, però da oggi e fino al 30 settembre è possibile in qualche modo scegliere, decidere di affrancare i propri valori, quindi di cristallizzare la situazione a oggi e di diciamo pagare il 20% su quelle che vengono chiamate le plusvalenze latenti, cioè che non sono ancora state realizzate. Quindi si può, bisogna consigliare andare a parlarne con la propria banca, con l'intermediario, eccetera, e si può fare questa operazione, che diventa, diciamo, in alcuni casi molto conveniente per chi ha vecchie minusvalenze da poter usare, diciamo, come credito d'imposta. Allora, okay, in quel caso tu cristallizzi la tua situazione, è un po' complicato, sì, cristallizzi la tua situazione al 1 luglio, al 30 giugno, a oggi, e utilizzi il credito d'imposta che magari ti sta scadendo perché ha un certo periodo di validità limitato per pagare le vecchie imposte, okay, e poi da qui in poi riparti con il famoso 26%. Immagino molti dettagli, tutti i dettagli sul Sole 24 certo, Ore, domani nemmeno a dirlo. Ma grazie a Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao, buonasera. Ci sentiamo anche un paio di voci di gestori che sono stati raggiunti questa mattina da Livia Zancaner. Iniziamo da Gianluca Verzelli, vice direttore generale di Banca Akros, secondo il quale si è persa un'occasione per fare chiarezza. E al di là di aumentare dal 20 al 26, questa era l'occasione per fare invece finalmente chiarezza, adeguarci alla norma, per la mediamente alle aliquote europee, e qui ci stava, ma eliminare tutta una serie di balzelli, tasse, controtasse, bolli, controbolli, che invece sono solamente tipicamente nostri, oltre al fatto di aver introdotto in anticipo rispetto ad altri la Tobin Tax. Quindi l'occasione, come al solito, che si perde in Italia è di semplificare, modificando per l'amor di Dio, ma affrontando in modo globale la problematica, e invece per l'ennesima volta si è semplicemente modificata una cosa lasciando invariate le altre, che sono le vere storture. Quindi invece una, per la prima volta, una razionalizzazione, una semplificazione probabilmente avrebbe portato anche chiarezza al risparmiatore, sapere, non so, che ok, mi pago dal 20 al 26, ma non c'ho più il bollo Monti, non devo pagare più il bollo sull'estratto conto, non devo pagare più tutta una serie di no? Finalmente sarebbe semplificato anche per lui capire qual è l'effettivo rendimento netto della sua performance, mentre invece ad oggi non è così, non è che paga il 26, paga il 26 più quello, più quell'altro, alla fine purtroppo il conto è molto più salato. La tassazione globale sul risparmio continua ad aumentare in modo indiscriminato e in modo molto più pesante. Va bene, non abbiamo tempo per farvi sentire altre voci, comunque trovate una bella pagina anche sul nostro sito www.radio24.it. A proposito del POS, ci scrive un ascoltatore: e se il cliente è un anziano che non ha carte, l'obbligo vale per gli esercenti e per i professionisti, non per i clienti. I clienti, se vogliono, possono continuare a pagare in contanti tranquillamente. Grazie a Paolo Corleoni in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in assistenza e redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Per Focus Economia torna Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.